Salve a tutti cari amici e benvenuti alla puntata numero 29 di Vagabondo in giro per il mondo. Anche oggi, mercoledì 3 maggio dell'anno politico 2017, al microfono per voi il vostro speaker vagabondo Fumino, che questa settimana è al rientro da un weekend, qualche giorno fuori porta ad esplorare un po' vizi, virtù ed abitudini delle persone che non vivono, diciamo, proprio nella mia zona di origine o comunque dove vivo fin in questo momento della mia vita. Bene, diciamo che ho imparato effettivamente alcune cose le ho imparate di nuovo e alcune cose le ho capite, mi ci sono ritrovato davanti, mi sono ritrovato sostanzialmente anche ad una lotta, fra virgolette, con l'ego, con il mio ego, che è chiaramente un animale come quello di tutti, che è molto faticoso mantenere sotto controllo, quantomeno mantenere ad una distanza, diciamo, di sicurezza, per così dire. E mi sono ritrovato quindi a combattere, sempre parafrasando questi termini che poi a me non piacciono nemmeno più di tanto, i termini da combattimenti, da guerrieri, da film, di pistole e di coltelli, però mi ci sono ritrovato quantomeno a scontrarmi, cioè quantomeno a prendere nota di alcune cose che chiaramente un angelo mi ha fatto notare, mettiamola così, e che è preferibile tenere quindi in ben considerazione. O chiaramente mi sono ritrovato con i miei a lottare con i miei, ma perché chiaramente ho anche visto tante persone che farebbero bene a lottare con il proprio e che effettivamente non ce la fanno, che magari non si rendono conto. Nonostante che sia qua a dirvi queste cose, ho ancora tantissimi punti di vista su cui lavorare, quindi sono il primo della fila ad avere questo tipo di problema, ma è proprio per questo, dal mio punto di vista, che allegramente, coscientemente mi trovo qua a parlarvene di questa storia, perché prima di tutto parlarne a voi fa bene a me stesso, mi fa ancora di più identificare quali sono praticamente quelle che nel gergo pokeristico i giocatori di poker chiamano leak, vale a dire i punti deboli, mentre nello stesso momento, dicendovelo, mi auguro che qualcuno, anche fosse solo una persona che è qui in ascolto, riesca magari a isolare, a riconoscere un suo leak per poter cominciare a lavorarci, per effettivamente trovarsi di fronte, poi affrontare una situazione migliore. Alla fine cosa mi è successo? Ma niente di che, però sapete com'è, un modo di fare, un cambio di paradigma, ecco, è stato un cambio di paradigma che mi ha un po' scombussolato l'ego e che effettivamente mi ha portato a scontrarmi con le persone che avevo intorno. Ma scontrarmi da un punto di vista ideologico, scontro, confronto, non certamente uno scontro, una guerra, ci mancherebbe altro, però un confronto che, se è fatto e portato avanti dalle parti in maniera cosciente, in maniera costruitiva, mi verrebbe di dire, ma non è chiaramente un vocabolo reale, però ecco, un neologismo, forse la Crusca mi darà questa parola, quindi in maniera costruitiva, e continuiamo a scherzarci su. Allora, confrontarsi fa veramente bene un po' a tutti le parti del confronto. Se una persona invece si confronta ma cercando lo scontro, quindi invece che confrontarsi per isolare l'ego e i suoi vizi da quello che è il nostro modo di fare, ma addirittura si confronta per scontrarsi, per alimentarlo, per far valere il suo ego nei confronti di quello degli altri, allora sì che c'è uno scontro, allora sì che le cose non vanno bene. Allora, detto questo, il motivo del contendere è un banalissimo pranzo, mettiamola così, e dicevamo un banalissimo prossimo pranzo. Alla fine, come vi ho detto ad inizio puntata, ero fuori regione, quindi altri modi di fare, altri modi di pensare. Bene, io sono una persona che è sempre stata abituata a considerare il pranzo, la cena, le conviviali, i ritrovi fra amici, alla fine la tavola, un posto centrale della mia vita e della vita delle persone che io sono sempre stato abituato a frequentare, praticamente senza eccezione. Ora chiaramente un'eccezione o due ci saranno, e che in questo momento non me lo ricordo, ma diamole per buone che ci siano, anche perché come sempre il 100% non esiste, quindi si parla per assoluti, ma è un modo di dire, non è la realtà. Però chiaramente, diciamo, per semplificare, che tutte le persone che io mi sono trovato nella vita a frequentare, che vengono dalla mia zona di mondo, dalla mia zona dove sono nato, dove sono cresciuto, e ci abbiamo un po' questa tendenza qua a essere compagnoni, a essere molto attratti dallo stare a tavola, dal rifocillarsi, dal bere. E poi chiaramente gola non è mica nel nostro caso un'esigenza, però è così, boh, probabilmente è antropologica questa cosa. Magari i nostri nonni hanno sofferto più fame qui che rispetto ai nonni di altre persone di altre parti d'Italia o addirittura del mondo, però è chiaramente noi siamo fatti così. Io non ho la spiegazione di questo, semplicemente siamo così. Trovato a confrontarmi con questo momento che per me è fra virgolette solenne, fra virgolette, ma nemmeno più di tanto, perché in effetti io lo ritengo un momento molto importante anche per socializzare, per conoscere le persone. Detto questo, mi sono ritrovato a scontrare il mio ego con quello delle altre persone che non hanno questo modo di vedere le cose, e alla fine sì, ne è nato uno scontro, ma per quanto mi riguarda perlomeno ne è nato anche l'occasione per individuare certe mie leak, certi miei punti deboli da questo punto di vista, e che in effetti hanno poco senso, perché alla fine paese che vai, usanza che trovi, e di conseguenza diciamo che per stare bene quando siamo fuori casa, quando siamo in un ambiente fra virgolette ostile, ma non ostile perché ci è ostile solamente perché non lo conosciamo, quindi lo dobbiamo un po' esplorare, lo dobbiamo un po' capire, è preferibile entrare dentro alle meccaniche che muovono determinati ambienti piuttosto che altri, e presentarsi all'appuntamento con un ego smisurato che pone avanti a tutto e a tutti il proprio modo di fare comune, probabilmente non è il modo migliore. Non questo perché siamo fuori casa, perché come è così per me che sono l'ospite, chiaramente è così anche per chi mi ha ospitato, vale a dire anche per chi mi ha ospitato. Dal mio punto di vista, portare avanti l'ego e farlo valere sì o sì solo in virtù del fatto che in quel momento siamo lì geograficamente non è proprio una cosa molto savia, anzi probabilmente non è alla pari, è sbagliata alla pari del mio comportamento. Però in effetti, pensandoci bene, questo è un modo per conoscersi, per conoscersi noi stessi, per conoscere le altre persone, e credo che sia un modo molto costruttivo di fare esperienza. Però detto questo, mi sono ritrovato sempre nell'ambito di questo mio fine settimana fuori porta a confrontarmi durante un pranzo che era un pranzo ufficiale, un pranzo di gala, un pranzo di quelli che dobbiamo fare sì o sì, perché chiaramente qui anche le persone che come me magari non amano troppo stare a tavola, non amano troppo proprio il rito del mangiare o del confrontarsi a tavola, ma non perché non amino confrontarsi, ma perché semplicemente non lo fanno di default in quel momento preciso della giornata, mettiamo così. Però ecco, ci sono dei momenti solenni in cui non si è esentati da questo rituale, quindi sì o sì dobbiamo stare lì. E chiaramente mi sono ritrovato a confrontarmi con un nonnino, mettiamola così, nonno Pancri, chiamiamolo tanto per essere simpatici. Un nonnino che io me lo sono ritrovato davanti, una persona mai vista prima e che probabilmente mai rivedrò nella mia vita, ma che mi ha lasciato veramente tantissimo. Alla fine è stato una persona che avrà, non so, una sessantina d'anni più di me, più o meno, forse un po' meno, una cinquantina, che ha un'esperienza di vita allucinante. Per esempio, non è aneddoto che mi ha fatto molto pensare è stato quando lui ha notato come gli uomini giovani presenti davanti a lui, che erano con me a tavola, avessero tutti la barba, e lui ci diceva: ma perché ci avete tutti la barba? E noi, un po' sarà moda, un po' sarà che non mi ci vedo, un po' sarà che mi ci trovo bene, un po' sarà quel che sarà. Però chiaramente lui rimaneva un po' sorpreso da questa storia della barba, perché dice: io da quando sono bambino, da quando sono ragazzo, insomma, la barba per me non è mai esistita, io non ho mai concepito la barba, ai miei tempi la barba per le persone della mia età non funzionava. E allora, alla domanda: ma c'era un qualcos'altro, c'era un qualcosa di strano? Lui, pescando nella memoria, è stato un momento molto toccante dal mio punto di vista, pescando nella memoria, ci ha raccontato di come suocero, quindi se lui ha 50 anni più di me, il suocero minimo ne avrà avuti 70 più di me, chiaramente adesso pace all'anima sua, sarà anche già bello che è deceduto, però ci ha raccontato che quest'uomo almeno per tutta la gioventù, diciamo, ma anche forse in età un po' più adulta, diciamo fino a 30 anni, se ne andava in giro con una bella coda lunga di capelli e due campanelle ai due lobi delle orecchie. Quindi, se ci pensiamo bene, un uomo che ad inizio secolo, alla fine, negli anni 20 più o meno, andava in giro capelli lunghi e orecchini a entrambe le orecchie, mi è venuto a pensare: ma che era un pirata? E sto signore, ridendo, chiaramente sì, ha detto: era un pirata di quel tempo, chiaramente non era mica Capitan Uncino o Jack Sparrow, però era un pirata di quei tempi, gli piaceva essere così, ma non solo perché andasse vestito in quel modo, ma perché essere vestito in quel modo effettivamente diceva che lo identificava in qualche modo. E questo, insomma, e per tutte le ore di questo pranzo io sono stato seduto davanti a questo uomo un po' incantato a sentire i suoi racconti e un po' anche partecipe a fare dei racconti miei. Sarà che a me piace parlare con le persone, anche se è la prima volta che le vedo, sarà che non lo so, ci sono un po' portato, io non lo so cos'è. Fatto sta che sono rimasto molto stupito quando i parenti di questo signore sono venuti preoccupati nella zona nostra a dirci: ma se volete venire 5 minuti da noi, perché col nonno, perché qui, perché là. Sembrava che stare con questo nonno fosse un delitto, sembrava fosse una cosa impossibile per tutti. Ma io dicevo: ma io grazie, ma io a parlare con questo signore ci sto proprio volentieri. E insomma, alla fine abbiamo scoperto che questo signore generalmente, quando è ai pranzi di famiglia, roba ufficiale, cose così, tendenzialmente arriva, resiste a tavola fino alla prima portata e poi o con una scusa o con un'altra, o di riffa o di raffa, alza i tacchi e se ne va, e là. E quindi era per questo motivo che gli altri parenti ci dicevano questa cosa, ma è perché secondo loro è impossibile stare col nonno perché il nonno se ne va. Io, guardandola da un altro punto di vista, sinceramente col nonno ci sono stato proprio bene, abbiamo parlato un sacco, ho saputo poi che addirittura ha mandato i ringraziamenti per essersi tanto divertito al pranzo con noi. Ora, chiaramente non è certo merito mio, ma se il nonno se ne va, di solito facciamoci qualche domanda, io non lo so perché, ma forse non è il diavolo, come si dice, non è così brutto come lo si dipinge. Ebbene, cari amici, siamo arrivati al momento topico della puntata del Vagabondo, vale a dire l'appuntamento con il Cafone Vagabondo. Ed il Cafone Vagabondo, se il Cafone delle ultime puntate era un Cafone che se ne sta al bar a infastidire a volte il barista, a volte il cliente, il Cafone di quest'oggi è il Cafone da pizzeria. Chiaramente, come avevo già annunciato, siamo italiani, quindi anche la pizza, come il caffè, fa parte della nostra cultura in maniera indiscutibile. Questo va in giro per tutta Italia, da nord a sud, da est a ovest, isole comprese, ed anche campione d'Italia che non è proprio dentro i confini nazionali. Chiaramente il Cafone da pizzeria cosa fa? Si guarda il menù, c'è un menù pieno di pizze. E cosa arriva il cameriere? Ci penso, ci ripete il cameriere intanto lì che aspetta, che non vede l'ora che gli dici questa benedetta pizza. Alla fine la pizza è sempre quella lì, come la prenderei mai? E poi niente da fare, nelle centinaia di pizze che sono offerte nel listino non ce n'è una che gli va bene. Allora inizia a dire: sì, ma io vorrei una margherita ma con il formaggio cotto dentro, e poi mi ci metti anche due olive e una fetta di salamino. Allora poi arriva quell'altro: sì, ma io vorrei una parigina, ma invece che farmela rossa fammela bianca, e con la rucola invece della rucola, e mettici questo e mettici quell'altro. Quante volte vi capiterà? A me personalmente mi capita sempre. Io da questo punto di vista sono un grande cafone. Bene cari amici, la puntata del Vagabondo finisce qua. Come sempre l'appuntamento è per mercoledì prossimo sulle frequenze di Radio Big World con la nuova puntata di Vagabondo in giro per il mondo. E attenzione al viaggetto che ci facciamo ogni volta fra i vizi e le virtù e le cafonerie di noi italiani, perché anche al prossimo appuntamento non vi risparmierò. Nel frattempo siate saggi!